dato la luce. Ho camminato per trovare qualcosa che mi ha dato la luce. Lasciavo il sole i miei ricordi. Lasciavo il sole i miei ricordi. Mentre cadevo tu non c'eri. Mentre cadevo tu non c'eri. Mentre cadevo tu non c'eri. Mentre cadevo tu non c'eri. Lasciavo al sole i miei ricordi. Lasciavo al sole i miei ricordi. Cercavo un sogno per tornare a sorridere. Cercavo un sogno per tornare a sorridere.